Salva Danaio di Deborah Rosciani. Salva Danaio da Deborah Rosciani, l'ultima puntata della settimana. Di cosa si parla questa mattina? Si parla di valute, dollaro sempre più giù. Che succede? Il biglietto verde è tornato, si è rapportato all'euro ai livelli in cui navigava il 22 agosto, 23 agosto del 2008, cioè un mese prima del fallimento di Lehman Brothers. Il cambio gravita intorno a quota 1,50, ancora esattamente questa soglia non è stata toccata, ma a giudicare dalla tendenza innescata da qualche giorno sembra proprio questione di poco. In questo momento il rapporto di cambio è 1,49,21. Un dollaro così fragile ovviamente aiuta l'economia americana a far circolare meglio le sue produzioni, sostiene la bilancia commerciale statunitense, ci permette di pagare meno per le materie prime e quindi magari alleggerisce la bolletta petrolifera, fa schizzare le quotazioni dell'oro e di altre materie prime. Ma che ripercussione ha questo dollaro su questo livello nelle scelte di investimento? Come rapportiamo questo andamento a quello del mercato azionario ed obbligazionario? Tra l'altro è una situazione, quella attuale, che ci porta anche a riparlare di un fenomeno che avevamo affrontato molto frequentemente almeno un paio di anni fa, che aveva preso ad andare di moda un paio di anni fa, il cosiddetto carry trade, ovvero la tendenza dei grandi investitori di prendere a prestito valute di quei paesi dove i tassi di interesse sono particolarmente bassi per puntare su asset, su categorie di investimento invece più remunerative. Per cui insomma un tema molto ampio da affrontare questa mattina, ma soprattutto un tema che sarà domani, la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore. Noi oggi ne anticipiamo tutti i contenuti con Maximilian Cellino, il collega del Quotidiano, per una volta tanto non il nostro esperto di riferimento per i mutui, ma magari con queste valute a qualcuno viene anche in mente di indebitarsi con un mutuo in dollari. Per fortuna non ne abbiamo a disposizione sul mercato, mi sembra. No, Maximilian, con un mutuo in dollari no, ma di mutui in franco svizzero se ne parla molto, infatti. E sono anche molto pericolosi, ma non infatti è magari il tema di oggi. Non è il tema di oggi, ma se qualcuno balenasse l'idea di farci anche delle domande su questo, siamo pronti. Insieme a noi stamattina anche Massimo De Palma, responsabile asset management di Swiss and Global SGR. De Palma, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno e grazie di essere con noi proprio per andare anche nel pratico delle scelte degli investitori alla luce di questo quadro economico che si sta determinando in questi giorni. Naturalmente ci piacerebbe sentire anche le vostre domande, le vostre curiosità su questo tema. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione come sempre, oppure avete il 349 238 6666 che è il numero per i vostri messaggi. Siamo partiti analizzando il mercato valutario, ma naturalmente anche la borsa ci sta dando degli spunti di interesse notevoli da qualche giorno a questa parte. In primo luogo, mercati estremamente focalizzati sulle trimestrali. Dagli Stati Uniti stanno arrivando i conti delle banche in questi giorni, sembrano tutti conti buoni, boom di utili, titolano i giornali. Tra l'altro conti trimestrali che hanno spinto su livelli molto interessanti il Dow Jones in America, sopra i 10.000 punti, anche qua un livello che non si vedeva da un anno a questa parte, per cui è come se il mercato avesse cancellato un anno di crisi, almeno a giudicare dalle quotazioni delle società. Cosa succede stamattina? Succede che Parigi è positiva, più 0,24%, Francoforte più 0,57%, Londra più 0,52%, Milano è la miglior piazza d'Europa, sta guadagnando lo 0,73%. Anche oggi abbiamo diverse trimestrali all'ordine del giorno. Bank of America, tanto per continuare ad esaminare il ramo bancario, General Electric, Holly Barton, Mattel. Ieri, dopo le banche, ieri è stata la volta di Goldman Sachs e Citigroup. Anche due grandi società nel settore tecnologico hanno comunicato i risultati. IBM e Google sembrano essere andati piuttosto bene, soprattutto per Google, e oggi appunto dicevamo ne avremo altri da esaminare. Vediamo a Piazza Affari cosa succede. Eni più 2,62%, il miglior titolo della seduta, spinto dal petrolio a $78 al barile e spinto anche dalla notizia della scoperta di un enorme giacimento in Venezuela. Monte dei Paschi più 2,62%, vendita degli sportelli in ballo per l'Istituto Senese, si parla di diverse trattative aperte con diversi istituti bancari e questo sta spingendo il titolo. Tenaris più 1,85, Talcementi più 1, Buzioni CM più 1, Terna più 0,9, Enel più 0,8%, questi rialzi più forti. STM invece il peggior titolo, sta perdendo l'1,79%, Geox meno 1,34%, e abbiamo un calo di un punto abbondante per Mondadori, per Fondiaria meno 0,7%, per Autogrill e Parmalat. Lasciamo il mercato azionario, magari poi ci ritorniamo, però, perché sicuramente sarà anche interessante esaminare la correlazione che esiste in questo momento fra l'andamento dei listini internazionali e l'andamento delle valute. Allora, Maximilian Cellino, a te l'ordine del giorno di farci il biglietto da visita di Plus 24 in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Focus sulla caduta del dollaro, intanto la possiamo definire così? Beh, in questo momento sì, direi, perché a inizio anno l'euro-dollaro era 1,38, a 1,25 a inizio marzo, cioè nel momento massimo della crisi, quando anche i listini azionari, e qui forse ci ricolleghiamo anche al tuo discorso in precedenza, hanno cominciato a rimbalzare. Ha cominciato a rimbalzare anche l'euro, perché da 1,25 siamo a 1,50, per cui una caduta, diciamo un forte rallentamento del dollaro, deprezzamento, si può parlare. La copertina di Plus, che si chiama, intitolata Occasione Mini Dollaro, vuole un po' andare a sondare quali sono appunto le opportunità e anche i rischi dei mercati valutari, in particolare per quanto riguarda il dollaro. Noi abbiamo condotto, io insieme ai miei colleghi Isabella Della Valle e Nicola Borzi, abbiamo condotto un sondaggio tra gli esperti delle banche d'affari su quale sarà il comportamento futuro del dollaro a fine anno e a giugno, un sondaggio non senza sorprese, perché tutti parlano di dollaro debole, ma diciamo che gli analisti non sono del tutto convinti su un dollaro particolarmente indebolito da qui a giugno. Poi anche all'interno dello stesso sondaggio abbiamo chiesto quali sono le valute extra euro e anche extra dollaro su cui eventualmente puntare, e poi ci siamo chiesti quanto costi in realtà e se convenga andare a investire a Wall Street coperti da rischio cambi, perché ovviamente la copertura ha un certo costo, quando convenga. E infine abbiamo fatto anche un'analisi su come sta in questo momento Wall Street, su quali sono il livello degli utili, su quali sono i prezzi proprio delle azioni, se sono a sconto o a premio rispetto alle altre azioni, o se sono, come dire, fair, corrette. Esatto. Allora, tra l'altro, a proposito dei sondaggi, Maximilian ci anticipava quello che è stato condotto da lui e dai colleghi di Plus 24 fra un gruppo di gestori. Io ne ho un altro a disposizione, che è quello periodico che elabora Morningstar, che è una grande società che pubblica, elabora rating, cioè giudizi per i fondi di investimento, e forse la più grande società in questo senso a livello mondiale. E anche in Italia sono stati interpellati un folto gruppo appunto di gestori per cercare di capire quali sono le impressioni su questa tendenza sul mercato valutario. E questo è quello che emerge, che il consensus sul dollaro sta rimanendo negativo, almeno secondo il panel appunto interpellato da Morningstar. Per il 45% dei gestori l'euro continuerà ad avere la meglio sul biglietto verde, e difficilmente la tendenza si invertirà, dal momento che è una divisa debole, sostiene la bilancia commerciale, lo dicevamo prima, e la ripresa americana. Inoltre, i flussi di capitale fra Stati Uniti il resto del mondo tenderanno a tornare alla normalità dopo che molti americani hanno rimpatriato i capitali in seguito alla crisi finanziaria. Il rapporto di cambio potrebbe mantenersi intorno a 1,46 almeno fino a fine anno, quindi una situazione di sostanziale dicevi Maximilian, stallo praticamente rispetto alla situazione attuale. Massimo De Palma, lei da che parte sta tra i sostenitori di una ripresa del dollaro, oppure l'euro continuerà a mantenerlo un po' così schiacciatino ancora per qualche mese? Io farei un attimo un passo indietro, nel senso che il dollaro lo scorso anno, a giugno 2008, era 1,60, quindi si era indebolito in maniera molto... Sì, guardi, ho la data, il top storico è stato toccato il 15 luglio del 2008 a 1,6038. Sì, appunto. Poi con la crisi che via via è aumentata, le notizie negative determinavano un rafforzamento del dollaro, un po' visto come valuta rifugio, fino al quarto trimestre 2008, dove è iniziata di nuovo la fase di indebolimento. Noi pensiamo che questo indebolimento possa proseguire anche nel prossimo futuro. magari non in maniera così intensa, però potrebbe continuare. De Palma, cosa c'è dietro a questa debolezza? Ci aiuti a spiegarlo ai nostri ascoltatori, perché su tutti i giornali noi non facciamo altro che leggere che è tutta colpa o comunque responsabilità, in ogni caso un atteggiamento indotto dalla politica monetaria che è stata necessariamente adottata dalla Banca Centrale Americana, che ha dovuto ridurre i tassi praticamente allo zero per poter permettere all'economia di riprendere un po' di fiato. E questa situazione peraltro è abbastanza probabile che si mantenga ancora per qualche anno, perché negli Stati Uniti non ci sono ancora le condizioni per ricominciare a far risalire i tassi. E oltre a questo che cosa c'è? C'è addirittura chi pensa che il dollaro possa essere accantonato come moneta di riferimento per la compravendita delle materie prime. Insomma, ci sono tante questioni in sospeso. Sì, ci sono un po' tutti questi aspetti, però io riprenderei proprio il discorso della notizie positive e negative. Da inizio anno le notizie positive sono riprese, diciamo, le sorprese positive sul mercato a livello macroeconomico si sono succedute, e questo ha determinato miglioramento del clima dei mercati finanziari, un ritorno progressivo alla fiducia. Mentre avevamo una avversione al rischio totale lo scorso anno, progressivamente la situazione è migliorata sui mercati finanziari, e questo ha determinato l'indebolimento del dollaro. È un ulteriore elemento che è intervenuto. Intanto sto cominciando a monitorare un po' le domande dei nostri ascoltatori, che ovviamente si sbizzarriscono un po' oltre che sul rapporto euro-dollaro e sul mercato azionario, anche su tutte le altre valute. Avete analizzato, mi pare, nel vostro sondaggio, non so bene in che termini, Maximilian, anche come si stanno comportando le altre divise internazionali, perché c'è chi vedo molto proiettato verso l'economia britannica, la sterlina, nell'interesse dei nostri ascoltatori. Sì, abbiamo chiesto qual è la valuta sulla quale puntare extra euro da qui ai prossimi 6 mesi. E diciamo che molti esperti puntano su una valuta che già ha guadagnato molto. Su una serie di valute che hanno già guadagnato molto. Sostanzialmente il dollaro australiano e anche altre valute, il dollaro neozelandese, altre valute che, diciamo, il dollaro australiano prima di tutto perché il differenziale dei tassi la favorisce, il famoso carry trade di cui parlavate in precedenza si effettua preferibilmente a vantaggio di valute tipo il dollaro australiano o il dollaro neozelandese. Prima essere penalizzato era lo yen, adesso essere penalizzato è il dollaro statunitense. Poi c'è anche una tendenza a favorire le valute dei paesi esportatori di materie prime. La stessa Australia, il Sudafrica, il real brasiliano, sono tutte valute che, se andiamo a vedere bene, hanno guadagnato molto nei confronti anche dello stesso euro, non parliamo del dollaro, da inizio anno. C'è un'altra valuta però che invece è tra le più penalizzate da inizio anno, e che è la sterlina, che addirittura da inizio anno a un anno nei confronti dell'euro ha perso il 16%, si avvicina un'altra volta verso la parità. E questa curiosamente invece è una valuta che secondo gli analisti è stata pesantemente penalizzata, anche oltre i propri demeriti, anche oltre i demeriti dell'economia britannica, e quindi è una valuta sulla quale per molti, per l'11% degli intervistati, dei gestori intervistati, è una valuta sulla quale si può puntare su un rimbalzo da qui a 6 mesi. Quindi sottovalutate in questo momento. Quindi una serie di valute forti anche negli ultimi anni, nell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni, come il dollaro australiano oppure altre legate alle materie prime, e una valuta invece penalizzata come la sterlina. Allora, adesso dobbiamo andare in pausa. Naturalmente ritorniamo nel giro di pochissimi minuti. Cercheremo di spiegare di nuovo che cosa vuol dire carry trade e soprattutto quali sono magari gli strumenti di investimento che si possono adottare senza correre molti rischi, perché ovviamente stiamo anche attenti a non buttarci con grande entusiasmo sulle valute, mercato molto volatile che naturalmente ci riserva anche delle sorprese a volte inaspettate. Insomma, tutto questo cercheremo di affrontarlo nella seconda parte di Salvadanaio, magari anche cercando di fare una considerazione più ampia su quanto è possibile che si mantenga questa tendenza, l'oro sui massimi, le borse che stanno tornando sui livelli di un anno fa, il petrolio che ha ricominciato a correre, le valute che sono un po' così ballerine. Insomma, cosa c'è dietro a tutto questo? sono rimessa le cuffie, ero un po' distratta, lo devo ammettere, stavo piacevolmente chiacchierando con Maximilian Cellino, ovviamente così, ma non è che disegniamo sempre solo scenari mondiali economico-finanziari. Maximilian mi stava in realtà anticipando una considerazione molto interessante che fa Plus domani delle Sole 24 Ore sul tema che affrontiamo questa mattina, quindi l'investimento in valute, con un occhio ovviamente particolarmente attento a questo mini dollaro, chiamiamolo così. E allora Maximilian così ha interpellato degli esperti per capire quando è il caso di coprirsi al cosiddetto rischio cambio. Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Perché magari qualcuno che ha una bella fetta dei propri investimenti, che hanno puntato dall'inizio dell'anno, facciamo un esempio temporale giusto perché è quello più facile, sul mercato americano, e magari così guarda in questi giorni in maniera molto attenta a quello che dicono i giornali su questo Dow Jones che è tornato sopra i 10.000 punti, e quindi fa un po' un calcolo e cerca di capire quanto abbia guadagnato dallo scorso marzo, per esempio, da quando i mercati erano sui minimi. E chiaramente la borsa avrà fatto un tot. Se poi andiamo a depurare questo guadagno dal dollaro, quindi dalla valuta che si è invece indebolita, chiaramente il margine di guadagno si sarà eroso sensibilmente. Maximilian, sì, diciamo da inizio anno fino all'altro ieri gli indici americani avevano in media guadagnato il 21,8%. E un terzo di questa performance se l'è mangiata per l'investitore europeo, un terzo che poi, di questa performance sommato, se l'è mangiata il cambio, perché l'risparmiatore europeo che non si è protetto dal rischio cambio rimane in tasca il 14%, che è buono, ma in passato ci sono stati anche casi in cui la performance magari più 7 più 8% dei mercati americani è stata interamente mangiata dal cambio. Chi avesse detenuto i titoli fermi in titoli di Stato italiani, per esempio, in questo frangente, chiaramente avrebbe portato a casa praticamente zero, per cui sì, magari in anche effetti. Di quella percentuale in realtà poi il discorso può valere anche al contrario. Sono stati anni in cui, non magari ultimamente, il dollaro ha guadagnato terreno sull'euro, e in quel caso uno ha avuto anche un extra rendimento. Per cui è anche molto difficile cercare di capire quando, a priori, quando conviene una copertura dal rischio dollaro. Certo, so che però qualcuno delle ricette te le ha date. Prima di fartele raccontare, vorrei sentire su questi aspetti Massimo De Palma, ve lo ripresento, responsabile asset management di Swiss and Global SGR, ricordandovi anche il numero verde per prenotare i vostri interventi, 800 24 00 24. È chiaro che magari un investitore professionale, De Palma, ha il fegato un po' più preparato, no? A affrontare le oscillazioni sul mercato valutario, che sono sicuramente più frequenti rispetto a tutte le altre, anche se poi negli ultimi due anni la crisi ci ha insegnato anche ad affrontare movimenti estremamente bruschi su tutti gli asset di investimento. E però lei che cosa pensa rispetto a questa questione che stiamo ponendo in questo momento? Un piccolo investitore che vuole anche ampiamente diversificare il suo portafoglio, comunque sul cambio come deve comportarsi? Ma ha una doppia opportunità: o di lasciarlo aperto ritenendo che nel medio termine queste oscillazioni in positivo e in negativo si possano poi pareggiare, oppure utilizzando degli strumenti o dei prodotti che abbiano la copertura insita nel prodotto stesso, e quindi in questa maniera immunizza quello che è l'impatto valutario, quindi seguendo solo quello che è il rendimento della componente o azionaria o obbligazionaria, a seconda di quello che ha scelto. Mediamente immagino che una protezione di questo tipo costi evidentemente. È più che altro per investitori professionali, perché generalmente noi quando facciamo una copertura del cambio utilizziamo il cambia termine, il forward, in cui però bisogna farlo per quantitativi importanti. Non è possibile che il cliente vada personalmente alla banca, è difficile che riesca a ottenere questo tipo di servizio. E poi dipende, è un costo, ma non è detto che sia un costo, nel senso che dipende quello che è il differenziale dei tassi di interessi delle due valute che si vuole utilizzare. In questo momento la copertura del rischio dollaro in realtà porta a uno sconto, quindi il differenziale va a favore della copertura. C'è un ascoltatore che ci chiede un giudizio su una singola società americana di cui ha acquistato un'obbligazione abbastanza a lunga scadenza, e lui chiede appunto che cosa è il caso di fare con questa obbligazione in relazione all'andamento del dollaro. Adesso magari cercheremo anche di formulare una risposta per il nostro ascoltatore. E però, Maximilian, c'è un'analisi interessante che appunto emerge dagli gestori interpellati da Plus, e cioè che se si investe in una sola azione, in un solo titolo, l'atteggiamento da adottare nei confronti della volatilità delle valute è uno; se invece si fa un portafoglio di investimento un po' più diversificato, forse si può rischiare un po' di più sul dollaro debole. Esatto, diciamo che regole precise non ce ne sono, però può essere buona norma se una persona è convinta di una società che opera negli Stati Uniti e vuole acquistare soltanto quella, vuole la performance di quella società, è chiaro che sterilizzare il rischio di cambio può avere un senso, può avere molto più senso rispetto a quando si acquista l'intero paniere, a quando si acquista un fondo sull'S&P 500 o un ETF. In quel caso, quando uno va a investire sull'intero paniere, in realtà uno punta un po' su tutto il paese, sugli Stati Uniti, sulla corporate USA, come si chiama, cioè su tutte l'economia statunitense, e quindi anche sul cambio. In quel caso il rischio cambio è corretto anche assumerselo, perché uno fa una scommessa complessiva, globale, diverso da quando uno sceglie soltanto una società, e quindi può sterilizzare la performance di quella società che, tra parentesi, come capita a gran parte delle azioni dell'S&P 500, ha ricavi a livello globale, non soltanto in dollari. De Palma è d'accordo su questo discorso? Sì, si può essere benissimo d'accordo. Il ragionamento è anche in relazione agli strumenti che si possono utilizzare. Attualmente, ad esempio, gli ETF sulle valute in Italia non li possiamo utilizzare. All'estero c'è qualche prodotto di questo genere, ma non è armonizzato, quindi non può essere utilizzato. Nel prossimo futuro probabilmente nasceranno questi tipologie di prodotti, vista l'esigenza che c'è a livello globale, e quindi potrebbero essere utilizzati acquistando il titolo azionario, obbligazionario in valuta estera, comprarsi anche un ETF che faccia da copertura. Un ETF che, ricordo, è una sorta di fondo di investimento passivo, non ha il lavoro di un gestore dietro e quindi replica in maniera praticamente identica un sottostante, può essere un indice, può essere un pacchetto di obbligazioni, di titoli di Stato, e però si possono praticamente comprare in borsa come delle semplici azioni. Ne abbiamo parlato tante volte a Salvadanaio, ma un piccolo riepilogo non fa mai male. È pronta un'ascoltatrice da Roma ad intervenire, Giovanna, solamente un attimo di pazienza, perché c'è un ascoltatore che ci scrive, è Ettore, promotore. Io non capisco bene la sua considerazione, Ettore, perché non ci chiama all'800240024? Lui forse contestava un po' il ragionamento che facevamo prima. Prima, quando si sceglie un asset di investimento, controllare un po' tutte le variabili che ne determinano la dinamica, e lui però contesta questo, dice: mai due variabili da controllare, o valute o equity o mercato azionario, altrimenti sarà sempre difficile trovare entrambe sui massimi. Maximilian. No. Sì, quindi lui è, da quanto capisco, una persona che sostiene che si debba sterilizzare il rischio di cambio quando si va ad investire in un mercato che è al di fuori del nostro raggio d'azione. Qui dipende anche da come una persona imposta il proprio portafoglio e quanto è l'avversione al rischio. Quello che vogliamo far capire noi alle persone è che quando si va a investire fuori dalla zona dell'euro, non tutti magari se ne ricordano, ma uno, oltre a assumersi il rischio il rischio azionario, si assume anche il rischio valutario. È una cosa banalissima, ma non sempre ci si ricorda. Giovanna da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un'investitrice della divisa statunitense, come mai? Investitrice, va così perché l'aveva fatto una mia amica, poi l'ho fatto. Dunque, ho comprato dei dollari a novembre, cioè prima dell'elezione di Obama. Sì, ma mi scusi, Giovanna, è andata in banca a chiedere, che ne so, $1,000, $2,000? Sì, quindi proprio la moneta, il biglietto. Ho aperto ho aperto un conto in dollari nella mia banca e ho cambiato e ho comprato di dollari. E mi è andata molto bene l'anno scorso, perché ho comprato a 1,39 e poi ho rivenduto a 1,26, pensando che con l'elezione di Obama ci sarebbe il dollaro si sarebbe rivalutato, e infatti è stato così. E poi per l'illusione di quello che mi era successo, ho guadagnato sui $3,000 in pochi mesi. Sai com'è, non è che ci può andare sempre bene, Giovanna. No, non lo sto prendendo. Certo che non può andare sempre bene. Siccome io non sono un'investitrice, ecco. E ho rifatto la stessa cosa, adesso 3 mesi fa ho comprato 1,39 e adesso è 1,50. Mm-mm. Allora volevo chiedere, siccome ho letto anche che in prospettiva il dollaro dovrebbe addirittura diminuire di valore, se mi conviene metterci una pietra sopra e vendere per non andare incontro a una perdita maggiore, o che cosa pensano gli economisti di questa debolezza del dollaro? È un po' il tema che abbiamo affrontato nella prima parte di Salvadanaio. Allora magari adesso assegniamo a Massimo De Palma. Ci ritorniamo Giovanna, perché interessa molti. Ci ritorniamo nell'ultima parte di Salvadanaio. Io posso dire la mia: mi sarei fatta un gran bel viaggio lunghissimo negli Stati Uniti a fare uno shopping senza vergogna, comprando di tutto, ma questo è un mio giudizio. Giovanna, però prendiamo atto della sua scelta, che è stata sicuramente molto intelligente qualche mese fa, adesso sta andando in maniera un po' diversa, e puntava, ha detto Giovanna, soprattutto sulla carica all'economia che avrebbe potuto dare questo nuovo presidente. Allora, abbiamo sentito il caso di Giovanna, che così un po' entusiasta dell'elezione del nuovo presidente, come lo è stato tutto il mondo, gli abbiamo assegnato anche un premio Nobel, insomma, lei ha voluto puntare sulle dollaro proprio perché dice, insomma, nonostante peraltro Obama stia gestendo la più grave crisi dal 1929 della Grande Depressione, dice, insomma, però questo non significa che possa dare una bella scrollata alla divisa. E allora, mi è andata bene l'anno scorso quando ho fatto questo investimento, aprendo addirittura un conto in dollari, e adesso ovviamente le cose mi stanno andando in maniera diversa, niente di drammatico, sono oscillazioni alle quali siamo abituati da un anno a questa parte, come ci diceva prima anche Massimo De Palma. De Palma, torno a lei per magari esprimere, non dico un giudizio, ma dare un'indicazione a Giovanna, perché proprio poi giudizi sui singoli investimenti non possiamo darne. Intanto noi ci auguriamo che Giovanna non abbia puntato tutto il suo risparmio sulla valuta. Posso partire con questa raccomandazione? Me la può rafforzare cortesemente? De Palma ci è caduto. Vabbè, però con Maximilia. Io ci sono. Ah, eccolo. Pronto? Sì. Ah no, Giovanna che è caduta, mi scusi. Fabio Cantadori stamattina un attimo distratto. Sono ancora in piedi io. No, ci siamo tutti quanti. Ha sentito quello che dicevo, Sì, sì, sì, sì, ho sentito tutto. Ma intanto fare trading sulle valute è molto difficile, e oltre alla componente importante di analisi fondamentale sulle valute, l'analisi tecnica, quindi analizzare quelle che sono le tendenze, è importantissima, ha una valenza ancora maggiore rispetto alle altre asset class. E quindi mettere anche le cosiddette stop loss, cioè bloccare le perdite, avviene, i vari operatori operano in questo modo, con stop loss molto stretti. E la tendenza del dollaro ultimamente è una tendenza ribassista, per cui finché non riesce a invertire questa tendenza, è probabile che cerchi di andare a toccare livelli di debolezza sempre maggiori. Però dare dei consigli è difficile, proprio perché le attese sulle valute, le stime sulle valute, poi molto spesso non si verificano nel futuro. Ecco, lei però ha detto una cosa interessante: probabilmente dovremmo testare livelli di debolezza sempre maggiori. Gli Stati Uniti vivono adesso una condizione economica che è molto precaria, è molto difficile, abbiamo visto il tasso di disoccupazione, su quali livelli sta viaggiando. L'amministrazione americana adesso un deficit pubblico enorme che dovrà rientrare prima o poi, tassi di interesse a zero, e su questo livello rimarranno ancora a lungo. Tutto questo come condiziona la divisa? O diciamo che adesso siamo in un mondo talmente globalizzato e chiaramente il rapporto con le altre valute, stiamo raccontando tutti i giorni, è evidente che forse l'andamento del dollaro non può essere condizionato solamente da ciò che avviene negli Stati Uniti. Non so se si è capito quello che le volevo dire. Sì, sì, sì, no, è correttissimo, è correttissimo. Tutti questi elementi portano debolezza. C'è stato un momento in cui si iniziava a parlare di un'eventuale inversione della politica monetaria da parte della Banca Centrale, e questo aveva per un momento dato fiato di nuovo al dollaro, però le successive comunicazioni che ci sono state hanno diciamo ridotto queste attese, e quindi il dollaro ha proseguito poi ad indebolirsi. E insomma, Maximilian, dobbiamo dica. No, certo, e poi facendo un confronto con le altre economie, in particolare quelle dei paesi emergenti o quelli collegati con l'attività produttiva sulle commodity, indubbiamente gli Stati Uniti sono più deboli. Io facevo anche un riferimento di tutte le valute di cui abbiamo parlato, a noi interessa in particolare anche la corona norvegese, anche questa legata all'attività di estrazione, all'estrazione del petrolio. Era solo per fare un'aggiunta all'elenco delle valute. E non per invitare Giovanna ad investire anche sulla corona, che aprire un conto poi in corona norvegese è un po' più complicato. Detto questo, per ribadire, insomma, visto che l'ascoltatrice ci aveva fatto una domanda abbastanza precisa, che prospettive possiamo indicare? Sono di stabilità comunque da qui alla fine dell'anno, almeno a giudicare dalla gran parte delle persone che abbiamo sentito noi, che ha sentito Morningstar, che ha sentito Plus, per ribadire un po'. Come dire, una prospettiva, Maximilian. Sì, anche se devo dire, non per così per cercare di difendersi a tutti i costi, e in parte anche De Palma prima lo stava sottolineando, che fare le previsioni sull'andamento dei mercati valutari è la cosa, credo, più complicata che esista. Le variabili in gioco, anche lì abbiamo visto, sono tantissime, c'è tutto, ovviamente fondamentali economici, il discorso dell'avversione al rischio, altri discorsi politici, per cui il fatto che il dollaro debole faccia comodo ovviamente agli Stati Uniti, ma molto meno comodo all'Europa e volendo anche alla Cina. Insomma, tutto questo messo insieme rende estremamente complicato fare delle previsioni. Semmai qualcosa vorrei dire sul tipo di strumento che si può utilizzare per andare a investire in dollari. La signora aveva scelto un conto denominato in dollari, e questa in effetti è una maniera per investire in dollari. Si prende il proprio conto corrente, lo si denomina in dollaro, per cui in questa maniera abbiamo praticamente un investimento in dollaro. Ma non è l'unico. Diceva De Palma che non esistono gli ETF che puntano direttamente sulla valuta. Qualcosa però anche con gli ETF e con i certificati si può trovare, perché esistono gli ETF monetari sulla liquidità, e ci sono anche degli ETF che permettono di puntare sul dollaro. Esiste un ETF sui tassi europei, esistono gli ETF sui tassi della sterlina, sulla sterlina esistono gli ETF sui tassi sul dollaro, sui Fed Fund. In questo momento danno il rendimento del tasso del dollaro, che in questo momento è prossimo allo zero, però sono denominati in dollaro. Per cui è come automaticamente se uno investisse sulla valuta, non automaticamente ma in misura immediata. Lo stesso esistono i certificati, esistono anche dei pronti controtermini denominati in dollari. Perché però no? Insomma, cerchiamo di capire bene come funzionano questi strumenti di investimento, e cerchiamo soprattutto di metterci dentro una piccola fetta del nostro portafoglio di investimento, se non ne conosciamo bene la dinamica. Se poi siamo disposti a rischiare di più perché abbiamo le coronarie forti, allora lì la questione è diversa. L'ultima domanda di oggi è Ettore da Parma, qual è la strategia di investimento che lei adotta, visto che mi pare di capire che le piacciono molto le società americane? Pronto? Ettore, ci siamo. Sono Enrico, ma lo stesso va bene. Ah, ecco, va bene, non avevamo capito, ho scritto Ettore, non importa, non si preoccupi, anzi, okay. Ci scusi. La mia domanda è molto, molto rapida, e la faccio con un esempio. Visto che appunto mi piace investire anche in dollari americani, se io faccio magari sbagliando in questo momento, ma facendo un investimento e quindi acquistando lo stesso titolo, faccio l'esempio, Eni in Italia e sul mercato americano, mi copro da rischio cambio? Io in questo momento credo di sì. Ah, però un interscambio finanziario oltre che culturale. De Palma, ha sentito cosa vuole fare Enrico? Acquistare sul mercato americano Eni? Sì. Perché per lui quale ragione? Perché non lo posso comprare sul mercato italiano? Enrico, lei solamente... Perché? Voglio avere comunque l'opportunità di acquistare dollari a 1,50 euro oggi. Se questo dovesse salire nuovamente, quindi il dollaro deprezzarsi, L'azione in America è legata alla quotazione in Italia e quindi il rischio cambio lo va a fare in copertura. Beh, se poi momento. Parliamo delle banche che si sono inventate la finanza creativa, ma vedo che anche Enrico non scherza. De Palma, io purtroppo ho pochi secondi di tempo. Cosa possiamo dire a proposito di questo il volo? Il prezzo si adegua, quindi se si rivaluta il dollaro scende il prezzo dell'azione. A parità. Quindi diciamo, è una scelta un po' ardita. Quindi Enrico, niente, abbiamo dovuto anche lei smorzare un po' gli entusiasmi rispetto a questa invenzione che aveva avuto. Maximilian, dobbiamo concludere. Gli altri temi di Plus 24 di domani che vogliamo indicare ai vostri lettori e ai nostri ascoltatori? Ma parleremo di fondi pensione facendo un bilancio dei primi 9 mesi del 2009, nel quale questi fondi che ci riguardano più o meno tutti hanno in media recuperato le perdite del 2008. Parleremo anche di fondi immobiliari, di una stretta della Consob agli incarichi per i periti e come al solito poi le consuete rubriche tra cui caccia al toro. Va bene, grazie molte, grazie anche a Massimo De Palma per essere stato con noi, ci risentiamo presto. Buona giornata, grazie a Maximilian, grazie a Gaia Romani ed Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadore in assistenza tecnica. Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.